sapore di un'altra vita, dove le cose hanno un altro senso, un altro paradiso perduto, questo è. Addio amore, addio, non piangere, questo è il destino di tutti i grandi amori, salire in alto e poi cadere. Ho paura a dirti che ti amo, come fosse ancora primavera. Amo l'ingenuità delle parole mie. Tu non sei più la mia donna, domani incontro al sole e me ne andrò. Credo, questo è un attimo di più, questo è un attimo. Ieri hai il sapore di un'altra vita, quando i gabbiani volano più in alto, cercano nei sogni la loro libertà. Come vorrei che fosse mia, io mi illudo che l'orchestra sia il tramonto e tu sei una ballerina fragile sulle tue punte. Ho paura a dirti che ti amo, come fosse ancora primavera. Amo l'ingenuità delle parole mie. Tu non sei più la mia donna, domani incontro al sole e me ne andrò. È molto più di quello che vedo, quando vedrai. È molto più di quello che sento, quando sentirai. È molto più di quello che credo, questo è un attimo di più, questo è un attimo. È molto più di quello che io credo.